Siamo in collegamento con Marzia di Elastico per parlare della Open Call uscita poco fa insieme all'Isola Senza Arte Non So Stare. Intanto Marzia, ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. Ciao, grazie a voi per lo spazio dedicatoci e per l'invito a chiacchierare insieme. Allora, io partirei subito con la domanda più ovvia, ovvero se puoi raccontarci un po' che cos'è Senza Arte Non So Stare e come nasce. Senza Arte Non So Stare è un intervento artistico nello spazio pubblico, una forma di riappropriazione del palcoscenico urbano che da ormai un anno praticamente è stato sottratto all'arte, alla musica e alla cultura più in generale. Abbiamo osservato come nel tempo siano state poi stabilite delle forme di aperture calmierate, contingentate da parte di vari esercizi commerciali come bar, negozi, mentre purtroppo tutto ciò che poi invece gravitava attorno al mondo dell'arte, della musica, insomma alla creatività in generale, ha conosciuto soltanto la parola e la dimensione della chiusura, del silenzio. Quindi fondamentalmente quello che a noi preme in qualche maniera denunciare o comunque soprattutto mettere in evidenza il fatto che molte associazioni che avevano luogo in una sede hanno inesorabilmente dovuto chiudere, tra cui appunto proprio il laboratorio Isola ed Elastico, e quindi abbiamo sentito il bisogno di raccontare anche un pochino quello che è accaduto a noi simbolicamente come piccole associazioni del territorio, ma in realtà su scala nazionale a tantissime altre realtà, per cui abbiamo ragionato un pochino su questo concetto dello spazio come luogo non luogo, e abbiamo immaginato appunto come possono essersi sentite tantissime realtà che gravitano attorno al mondo dell'arte e della cultura, quindi in un certo senso parcheggiate, no? Quale luogo migliore, quale luogo non luogo migliore se non proprio l'area perimetrale del parcheggio, quello delimitato classicamente dalle strisce blu, no? Che non ha pareti, non ha limiti se non quelli appunto contrassegnati dalle strisce di colore blu su uno spazio orizzontale. L'orizzontalità anche diventa simbolo un po' di comunione, di intenti e anche di dolore patito tra associazioni, ma anche tra artiste e artisti, per cui abbiamo proprio scelto di riappropriarci dello spazio pubblico inserendo questa mostra, che poi sarà principalmente più che una mostra, un'azione, perché l'Open Call è aperta sia a performer ma anche a forme di, diciamo, d'arte visiva, quale l'installazione, la scultura o l'installazione più in generale, proprio per raccontare un po' quello che molti di noi hanno vissuto, ma anche per riappropriarci di uno spazio che comunque ci appartiene. C'è tutto questo discorso sullo spazio, ovviamente ha anche una forte connotazione politica, nel senso che in quest'anno di pandemia, ne abbiamo parlato molto spesso anche su queste frequenze, sono venuti a mancare molti spazi e molti luoghi, mentre sembra che rimanga una città sempre più piena di non luoghi come quello in cui farete voi questa performance. E ti volevo chiedere se hai voglia di raccontarci un pochino molto velocemente anche la vicenda di Elastico, un po' chiaramente è difficile da riassumere in poco tempo, però proprio appunto come dicevi, visto l'intento anche di questa azione di essere un momento di racconto performativo, se hai voglia di raccontarci qualcosa anche qui adesso. Da un certo punto di vista sarei molto tentata di raccontare anche nel dettaglio la vicenda per come è andata, però dall'altro ci siamo anche date, poi abbiamo dovuto elaborare un po' una sorta di lutto, nel senso che noi avevamo una visione molto chiara su quel luogo, su quello spazio, e questa visione andava avanti nel tempo, cioè avevamo delle proiezioni di cose da fare, di migliorie da portare, per cui è stato un po' l'abbiamo vissuta un po' come una forma di sabotaggio, nel senso che lo spazio è comunque uno spazio comunale, però assegnato tramite bando ad una polisportiva. Noi da un anno, cioè praticamente dal primo lockdown, ci siamo sempre impegnate a pagare l'affitto e riconoscere, se non la cifra intera, quello che riuscivamo a fare nonostante l'interruzione totale di ogni attività, però non è questo sforzo non è non è bastato, per cui la Polisportiva poi ci ha chiesto di tornare a pagare la cifra intera, comunque una cifra impegnativa. Noi di fronte però a questa impossibilità abbiamo, cioè l'unica cosa possibile da fare era appunto andare via e lasciare quello che era appunto il nostro spazio, che ha ospitato nell'arco di 4 anni centinaia di eventi, artiste, artisti, residenze artistiche, laboratori rivolti alle scuole, progetti rivolti al quartiere, perché durante l'estate ad agosto, quando a Bologna non c'è niente, noi ci siamo sparate, scusa l'eufemismo, però oltre ai 40 gradi di calura che la città di Bologna sa riservare, ci siamo sparate anche delle sessioni di laboratori rivolte a bambini e adolescenti gratuiti di, che ne so, scrittura creativa, oppure laboratori di ceramica o di serigrafia. Quindi comunque abbiamo anche offerto un servizio in qualche maniera al quartiere e alla città, per cui ci è sembrata un po' una forma di abuso quella che abbiamo subito, anche se devo riconoscere che il quartiere Navile ci ha poi in qualche maniera alleviato il dolore offrendoci asilo, nel senso che ci hanno prestato dei locali per poggiare tutta l'altra roba che in 4 anni ovviamente potete immaginare quanto essa sia. Però nel frattempo rimaniamo ancora senza uno spazio, rimaniamo ancora adesso così, parcheggiate, ecco. Allora, intanto ovviamente con l'augurio che gli spazi tornino a moltiplicarsi in città, però nel frattempo tu parlavi appunto di come Lastico sia sempre stato attraversato da tante artiste e artisti, e anche in questo momento artistico e performativo, appunto Senza Arte Non So Stare, parcheggiato in città, appunto è un open call aperta, quindi volevo anche chiederti se puoi spiegarci un po' come funzionerà la partecipazione. Certo, allora è un open call rivolta a tutte le artiste e gli artisti della città, ma non solo, anche a persone che vengono da altri luoghi. Sarà possibile spostarsi per ragioni appunto di lavoro, in questo caso artistiche, perché saremo ufficialmente arancioni. L'evento si terrà a fine maggio, l'ultima domenica di maggio. Basta inviare la propria candidatura con la descrizione del progetto che si intende presentare. Ovviamente il tema è appunto quello dello spazio, quindi è un tema molto vasto, perché lo spazio può essere il corpo, lo spazio può essere un luogo fisico, ma può essere anche un luogo immaginario ed effimero. Le forme, diciamo, di rappresentazione che abbiamo scelto sono la performance, quindi appunto l'utilizzo del corpo e della voce, e l'installazione, proprio perché, cioè, immaginiamo un'installazione più di tipo scultoreo, più che altro perché sarà temporanea come azione, si svolgerà di domenica durante il pomeriggio e comunque durerà 3 ore, anche per cercare di evitare assembramenti, e cercheremo anche poi di organizzare il tutto affinché ci siano poi delle repliche, delle performance, e consentire a tutti di gravitare, tutte e tutti di gravitare nello spazio senza per forza appunto assembrarsi. Io ci tengo più che altro a citare da cosa è nata l'idea di questa call, perché è vero che dobbiamo elaborare un lutto, però dobbiamo anche inaugurare una stagione nuova di grande entusiasmo e di anche solidarietà tra associazioni che magari non hanno perso lo spazio, ma come altre hanno comunque affrontato grandissimi problemi nel tentare di mantenere lo spazio, di resistere nei propri spazi. Per cui è nata questa grande rete, è nato tutto un po' da una iniziativa così spontanea, personale di alcuni di noi, che hanno invitato diverse associazioni, che adesso magari ci citerò se c'è il tempo, a unirsi per formare una grande rete e riappropriarci dello spazio pubblico per manifestare un componchino, ma non soltanto manifestare quello che è stata poi la nostra esperienza, anche per sollecitare un pensiero critico su quello che sta accadendo a tantissimi spazi culturali, alla cultura in generale in questo tempo pandemico. Ognuna di noi, ogni associazione porterà la propria istanza. Allora, volevo citare adiacenze: Checkpoint Charlie, Circolo d'Erre, Elastico, Exit, Gelateria Sogni di Ghiaccio, Laboratorio Isola, Maison 22, Nelumbo Open, Otto Volante, Parsec e il Tank, il Serbatoio Culturale. Ovviamente se ne aggiungeranno, spero, delle altre, e nel frattempo però stiamo ragionando e lavorando ad un evento collettivo che in qualche maniera farà sentire le nostre voci. Grazie, e aspetteremo sicuramente di sapere dell'evento per poi poi riparlarne anche qui. Ti chiedo se intanto c'è già qualche canale su cui è possibile seguire la rete. È neonata, per cui stiamo lavorando adesso ad un'immagine coordinata, stiamo creando il logo, l'immagine, stiamo dando il nome, stiamo dando poi anche spessore a questo evento, che sarà sicuramente promosso sui canali di ogni singola associazione, quindi sicuramente Radio Fujiko sarà tempestivamente aggiornata di questa nuova neonata. Benissimo, allora io per ora ti ringrazio, direi che a questo punto ci risentiremo molto presto e speriamo di vedere crescere tantissimo velocemente questa neonata rete. Nel frattempo ci vedremo alla iniziativa Senza Arte Non So Stare. Assolutamente, per chi volesse inviare la propria candidatura l'indirizzo è info@elastico.org, comunque basta andare sul sito di Elastico, che è appunto www.elastico.org, per trovare tutte le indicazioni per partecipare alla call. Perfetto, grazie mille, ciao. Grazie Anna, grazie a tutte e un bacio.